di sera. Hai lavorato la settimana intera. Adesso è l'ora di chiudere bottega e andare via. E spruzzare la tua sera di allegria. Scherzare. Ballare. Giocare. Cantare. Molla tutto. Ma non vedi come sei ridotto. Dammi retta, vinci un terno all'otto. Se ti fiderai di me. Molla tutto. A quest'ora quel che fatto è fatto. Faccia il cane, chiudi fuori il gatto. E poi vieni via con me. Scende la sera, la luna sale di lassù. Manda un raggio blu su noi. E come un magico palcoscenico. Proprio tutto, buttala via, malinconia. Molla tutto, metti la cravatta e il doppio petto. Elegante come un baronetto, vieni fuori insieme a me. Molla tutto, le tue grane chiudi nel cassetto. Questa notte non andare a letto, ma ballare insieme a me. Le stelle in cielo si mette. Sabato è per noi, tanto lo sai che domani dormirai. Dai, molla tutto, ma proprio tutto, buttala via, malinconia. Molla tutto, molla tutto e poi facciamo un patto. Per stasera vieni a fare il matto insieme a me. Molla tutto, da stasera questo è il nostro motto. Molla tutto, proprio tutto, tutto, e divertiti con me.